dove siete, dovete venire al Tank, che dobbiamo giocare a football contro tutta Formentera e Ibiza. Tutti convocati alle Olimpiadi di Carlo Genta. Una seconda volta il bronzo di Rachele Bruni si è trasformato in argento perché è stata squalificata la francese Aurélie Muller. Rachele Bruni è argento olimpico. Pedala verso la medaglia d'oro, Elia Viviani scuote la testa, è il momento, sì, è il tuo momento, grande Elia, grandissimo Elia Viviani, medaglia d'oro nel ciclismo su pista, nell'Omnium per l'Italia con Elia Viviani. Ragazzi, oggi niente medaglie, almeno per il momento, quindi siamo rimaste con quelle di ieri pomeriggio di Rachele Bruni e quella della notte, meravigliosa, la medaglia d'oro di Elia Viviani. E questi sono due degli argomenti di cui ovviamente parleremo. Abbiamo rivisto in pista sui 200, le batterie dei 200, poco fa Usain Bolt. Abbiamo un po' di delusione addosso per l'affondo di 10 km per i nostri colori, ma tutto ci racconta Dario Ricci, nostro inviato a Rio. Ciao Dario. Ciao Carlo. Ciao. Devo dire che dai il numero verde, così gli ascoltatori chiamano. Dai il numero verde dal Brasile. 800 24 00 24, giusto? Perfetto, chiamate 800 24 00 24, siamo qui a raccontarvi l'Olimpia di ogni giorno dalle 18 alle 20. Dario. Devo dire, guarda, stiamo tornando, viaggio epocale, da Copacabana per tornare al Parco Olimpico, un'ora e mezza, formazione di servizio. Ah, sì? Siamo qua sulla navetta. Sì, insomma, pure noi no, stiamo facendo la nostra 10 km di fondo nelle acque. Devo dire che quella di oggi è stata una gara epica, peccato che non sia arrivata la medaglia, perché Ruffini e Vanelli ci hanno provato fino allo sprint finale, tant'è che hanno chiuso al sesto e al settimo posto, ma è stata una volata incredibile. Perché? Perché è quasi come se avessimo un nuovo Dorando Pietri, caro, caro Carlo, perché il greco Giannutis in questa volata era arrivato nettamente primo, nel senso che era avanti i buoni 30 centimetri e, come sai, ha toccato la piastra che indica la fine della gara, no? Perché non c'è un vero e proprio traguardo, come diciamo ieri. Bene, evidentemente, come già era capitato a Phelps e a Čavić in quel caso in piscina, non ha toccato con sufficiente forza la piastra e quindi l'olandese che gli stava dietro, Vellerman, invece questo tocco con questa forza l'ha fatto e di fatto ha vinto lui. Si è visto proprio Giannutis che ha toccato la piastra, non si è acceso il suo questo rilevamento, Vellerman lo ha ritoccato, Giannutis ha provato il tapin a quel punto, l'ha ritoccato ancora una volta, ma alla fine è stato l'olandese che di fatto è arrivato secondo. Infatti, se fosse stata una linea del traguardo, Vellerman sarebbe stato nettamente secondo, perché era staccato di buoni 30 centimetri di dietro, e invece questa piastra ha sancito questo risultato abbastanza clamoroso. Roba da prendere la martellate. Io fossi il greco andrei lì stanotte a prendere la martellate. Sì, anche perché lui dell'altro è quarto a Londra 2012, ha 36 anni, quindi veramente diventa, dopo Grande Pietri, colui che ha vinto e ha perso l'oro. Negli stessi secondi, è stata veramente una grandissima emozione, in una volatona che ha coinvolto anche gli azzurri, che a quel punto, non a caso, la sesta e settima posizione di Ruffini e Vanelli è arrivata al photo finish dopo la squalifica, tra l'altro, del britannico Brummel, che era arrivato terzo, invece squalificato anche lui nel volatone a favore di un francese. Quindi, insomma, peccato non sia arrivata la medaglia, perché la gara però è stata davvero davvero spettacolare. Adesso puntiamo dritti verso Vanessa Ferrari, perché 14:37 locali, 19:37 c'è la finale al corpo libero, anche lì come nel caso di Tania Cagnotto, sai, quella della Ferrari sarebbe quasi una medaglia alla carriera. Nella prova a squadre non ha incantato, anche perché il tendine sinistro, il tendine d'Achille fa le bitte, però in corpo libero questa specialità davvero anche lei deve riscattare l'amaro quarto posto di Londra. E poi, intanto per aggiornarvi sul calendario, al volo ci si tuffa in piscina per la pallanuoto, perché come sai bene le ragazze hanno già aperto la strada, hanno conquistato ieri la semifinale battendo la Cina nettamente 2-17. Oggi si prova il set bello contro la Grecia, che tra l'altro è un bel pezzo del passato anche del CT Castagna. Come no? In semifinale, tanto per completare il quadro, è lanciata verso la semifinale, è lanciata anche lì dal volley, visto che abbiamo conquistato i quarti, poi c'è tutta la storia del biscottone. E questo è un altro bel tema, questo è un altro bel tema che di solito attizza da morire gli ascoltatori, che già invito, parleremo anche del biscottone, 800 24. Infatti, 0024, un Blangini che dice: ma io me ne sono neanche accorto, ho fatto un normale turnover, mi prendo l'Iran, non è male. Ma è poi giusto, anche perché comunque Birarelli aveva avuto l'infortunio alla caviglia, Piano addirittura ci rischia un po' il faccio, avevamo la possibilità di gestire le risorse, abbiamo visto che è successo all'Europeo di calcio, no? Nel vincere a tutti i costi un girone, insomma, tutto sommato ci siamo conquistati sul campo, anche perché poi devi dire che i francesi si arrabbino, visto che la loro partita col Brasile l'hanno persa. Vincevi quella e eri padrone del tuo destino, questo parere personale. Sì, sì. Poi passano Lupo Nicolai. Come? No, dico, stasera poi c'è anche Lupo Nicolai del beach volley, che si vanno a giocare i quarti di finale, siamo a un passo anche là dalla semifinale, quindi veramente siamo a un passo dalla medaglia, insomma, se non sbaglio. Siamo lì che lottiamo, caro Dario Ricci. Tu quindi adesso cerca di districarti dal traffico tentacolare di Rio de Janeiro e ci sentiamo più tardi per Vanessa Ferrari. Allora vedi che ti sei lamentato. Si è lamentato a sproposito, sei già arrivato, sei già pronto per Vanessa Ferrari. Noi ci sentiamo dopo, quando comincerà la gara. A dopo, ragazzi. Ciao Dario Ricci. Ciao. Allora, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi, sms, whatsapp, 349 238 6666. Mi sembra chiaro che questa sia l'Olimpiade dell'amore, no? Perché dopo le proposte di matrimonio sul podio di cui abbiamo parlato ieri, abbiamo avuto anche questa bellissima dichiarazione d'amore di Rachele Bruni, ieri medaglia d'argento, che ha dedicato la sua medaglia alla compagna di Letta facendo outing. Allora fate outing anche voi, ragazzi. 349 238 6666, mandate i vostri whatsapp. Ma questo non vuol dire semplicemente amo questo, amo quello, eccetera. Potete anche dichiarare che andate a rubare la Nutella di notte alla mamma, potete dichiarare che dite che andate a giocare a calcetto, invece poi andate a fare baldoria con gli amici e passate dalla fontanella a lavare la maglietta, dichiarate quello che volete, a me fa piacere. 800 24 00 24 numero verde, traffico, torniamo subito. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Atleti, a voi. Tutti convocati. Run, boy, run, run. Convocati alle Olimpiadi. No, caduta di Viviani con Aoshi, caduta di Viviani. Forza Elia, dai, l'importante è che non siano problemi fisici. Pedala verso la medaglia d'oro, Elia Viviani scuote la testa, è il momento, sì, è il tuo momento, grande Elia, grandissimo Elia Viviani, medaglia d'oro nel ciclismo su pista, nell'Omnium per l'Italia con Elia Viviani, Elia Viviani. Sicuramente la caduta mi ha un po' scosso perché quando cadi non sai mai cosa può succedere. Mi sono fermato un attimo per cercare di capire cosa era successo, visto che la bici non era a posto e quindi avrei dovuto cambiare bici. Mi sono preso anche un giro un attimo per capire come stava il corpo. Sono salito in pista guardando il tabellone, pensando che comunque ero il leader di quest'Omnium e non potevo mollare in quel momento, e soprattutto dovevo solo capire se potevo ancora difendere il mio titolo. Non ho ancora capito cosa sta succedendo, però ho vinto la corsa più importante della mia vita, quindi penso di essermelo meritato, perché ho inseguito tanto, ho perso dei mondiali, ho perso l'Olimpiade di Londra ed è 4 anni che ci penso, e oggi quando sono salito su quella pista era solo per questa medaglia. Grazie agli spendi di ufficio di Claudia Schiattone, il nostro autore, ci hanno promesso che tra un paio di giorni Elia Viviani potrebbe essere nostro ospite in questi studi. Quindi ve lo dico da adesso e poi vi confermo l'appuntamento, sì, perché Claudia Schiattone, Leonardo Sirigato, Lorenzo Rotella, tutti a sudare 7 camicie in redazione, così come Pietro Lacorte in regia, figuratevi sottoscritto qui a parlare tutto il giorno, mentre Leo Turrini se la passa benissimo a Rio de Janeiro. Ma caro Genta, qui regna lo stupore più assoluto, anche Elia Viviani ha detto, ma veramente Genta è tornato a lavorare? Dopo la lunghissima pausa pre-ferragostana, gli ho detto pare, ma sembra che contemporaneamente sia andato al mare Capuano. Quindi voglio dire, qui io sono l'unico che lavora e sono a vostra disposizione. Sì, e cosa infatti ho letto dire? Con lo attenzione sapevate, i tuoi dieci pezzi di oggi. Sapevate, il papà di Elia Viviani faceva i rally. Ha corso anche un rally di Monte Carlo come navigatore, sì. Quindi avete capito da dove viene questa abilità nel districarsi le mischie dell'Omnium, l'individuale a punti, le volate gomito a gomito, cioè, è una cosa di DNA. Insomma, l'abbiamo già detto tante volte, caro gente, mi scuso per la mia banalità, ma questa è veramente l'Italia olimpica delle famiglie, è sempre una cosa di DNA, straordinaria l'emozione di questo ragazzo in pista, e qui mi taccio perché potrei cominciare a evocare Pezzanella, Bianchetto, Beghetto, i tempi eroici in cui i velodromi riempivano la penisola. Adesso e dove sono i velodromi della penisola? I velodromi della penisola come stanno? Purtroppo, tutto se bene, vogliamo dire la verità, abbastanza male, sono impianti abbandonati o quasi. Tu sai che un tempo a Milano, parliamo di oltre 30 anni fa, crollò sotto la neve il Palazzo dello Sport, che ospitava la 6 giorni, non è mai più stato ricostruito. C'è una bellissima pista a Montichiari, questo sì, e bisogna dare atto a gente come Martinello, Villa soprattutto, che è il tecnico del settore, che si stanno impegnando tantissimo per cercare di recuperare una tradizione. Ad esempio abbiamo anche un quartetto dell'inseguimento molto giovane, con questo Ganna, che ha un nome epocale, che è il campione del mondo dell'individuale, che però non è più nel cartellone olimpico. Abbiamo questi ragazzi dell'inseguimento che promettono molto bene. Insomma, è un'altra storia molto italiana che viene, non voglio dire dal deserto, perché sarebbe ingiusto, no? Ma da una passione coltivata da pochi, con questo fuoriclasse assoluto, perché io a Londra ricordo che Elia, con questo nome da profeta, sì, no? Evidentemente, cioè, aveva un presagio dorato, era in testa prima dell'ultima prova dell'Omnium, già 4 anni fa, e gli andò male. Sì. Così come recentemente al mondiale. Ma poi sai, ha anche detto che se la portava dietro da 4 anni, che ce l'aveva sul gozzo da 4 anni con la medaglia, benzina per quanto ha fatto ieri. È stato risarcito, ma io credo che, guarda, lo dicevo ieri, il ciclismo italiano meritava un risarcimento dopo quanto abbiamo visto, perché il bronzo che è arrivato alla prova femminile è bellissimo, però non c'è ancora passata per la prova di Nibali e della squadra italiana. Ti quindi ricordi quando parlammo con Davide Cassani qualche giorno fa, certo, no? Che era appunto fresca ancora la botta della caduta di Nibali, e Davide segue anche la pista. E lui, insomma, ebbe modo di dire che non era ancora finita per il ciclismo alle Olimpiadi, proprio perché c'era questa attesa particolare che circondava Elia, si sapeva con quanta attenzione lui aveva preparato l'appuntamento, perché Viviani è uno che va forte anche su strada. Appunto, questo è un bel argomento. Ha battuto Cavendish, che se non ricordo male è quello che ha vinto più tappe del Tour de France dopo Eddie Merckx. Potrei dire una sciocchezza, ma più, non mi pare. Tu sei un grande esperto, non solo di sabbiature. C'era anche questo Gaviria, no? Che è un colombiano, che tutti dicono nell'ambiente essere il nuovo Rick Van Looy, hai capito? Sarà, però, dicono, il nuovo fuoriclasse delle volate, dicono già che è favorito per il mondiale dell'anno prossimo che si corre in Qatar, dove c'è solo una montagnola di sabbia di quelle che noi facevamo in spiaggia a Cervi, hai capito? Sì. Quindi non sarà il percorso della gara, quindi no, non sarà il percorso non sarà il percorso olimpico. Tutti, nonostante la caduta, devo Leo, dire, insomma, Leo, insomma, Leo, sono emozioni forti. Leo, voglio, allora, poi parliamo anche di questo messaggio. Io prima l'ho buttata lì, ma ne parliamo più tardi. Pur di buttare fuori i francesi, scrive un maligno ascoltatore, non faccio un biscotto ma tutta la pasticceria. Di questo parliamo dopo. Intanto c'è Ivan Basso con noi, con cui voglio commentare questa vittoria. Ciao Ivan. Buonasera a tutti. Ciao. Dicevamo, io e Leo Turrini aspettavamo un risarcimento dalle biciclette. Alla fine ce l'abbiamo avuto ieri con Elia Viviani. L'hai vissuta anche tu così? L'ho vissuta in diretta a casa. È stata un'emozione particolare, perché come qualche settimana fa, quando abbiamo parlato di Nibali, anche per Viviani vale lo stesso discorso. È un atleta che ho avuto come compagno di squadra, collega, compagno di camera, quindi lo conosco molto bene e conosco anche quanto ha investito in termini di tempo e di energie psicofisiche negli ultimi anni per arrivare a conquistare l'oro di ieri sera. È un percorso molto lungo ed è un premio veramente che merita pienamente. Senti, lo chiedo a tutte e due, a Leo Turrini e a Ivan Basso, una considerazione che si faceva oggi pomeriggio con Marino Bartoletti, il quale giustamente sottolineava che sembra ci sia a questo punto una grande permeabilità tra la strada e la pista. Viviani non è uno specialista soltanto della pista, ma è uno che corre, ha corso con Ivan Basso e corre normalmente. Cavendish, si diceva, è uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi. Leo Turrini mi parlava del futuro talento colombiano. Mi sembra ci sia una sinergia tra pista e strada che francamente non avevo mai notato. Leo. Ma sicuramente. Beh, fai parlare prima Ivan, che faccio è molto parlare più competente Ivan di me. Io arrivo dopo. No, non è questione di è un dato di fatto. Io credo che uno dei motivi per cui la federazione, Cassani, Villa stanno investendo molto per far crescere questo movimento è proprio perché si è visto negli ultimi anni, c'è stata, a partire dall'Inghilterra, l'Australia, sono stati molto bravi dalla pista poi a creare, formare talenti che poi si sono espressi anche su strada in modo eccellente, da Wiggins insomma, ce ne sono tanti esempi che si possono portare. Credo che l'Italia, il lavoro dell'Italia, chiaramente Viviani è il nostro primo rappresentante, non solo perché ha vinto l'Olimpiade ieri, ma proprio per quello che ha fatto negli ultimi anni. E quello che l'Italia sta facendo in generale con la pista, i risultati li vedremo da qui in poi. Ecco, questo è il mio punto di vista. Tu, Leo Turrini, qual è? Beh, io credo che dobbiamo copiare dai britannici, perché Ivan giustamente ci ha ricordato Bradley Wiggins, no? Sì. Che è un idolo in Gran Bretagna di proporzioni straordinarie, e lui viene dalla pista, però è stato capace di vincere un Tour de France. Tra l'altro poi, molto spesso nello sport le cose ritornano, adesso lo dico per i più giovani perché io sono anziano, ero imbambito, ma Patrick Sercoux, ve lo ricordate? Patrick Sercoux era un grandissimo velocista da velodromo, più volte campione del mondo, passò sulla strada e ovviamente non per il tour, ma nelle gare a tappe era sempre grandissimo protagonista negli sprint. Ha vinto, non so, la Cavendish, voglio dire, no? Che è un altro che alterna le due cose. Però vorrei, a questo punto, posso fare una citazione su Sercoux perché è troppo divertente? Certo. Lasciamela fare. Giro d'Italia del 1976. Francesco Moser in maglia rosa viene colpito da un attacco di dissenteria. E mi scuso con gli radioascoltatori, ma insomma questa è la storia. E insomma, poveretto, Moser è in difficoltà e lancia lontano un berrettino che ha usato per fare non dico cosa, no? Il berrettino finisce addosso a Sercoux, attenzione, che era un velocista, cercò un moto di indignazione, scatta in salita e andò in fuga in salita per 30 chilometri. E Gianni Brera fece un articolo memorabile su questo episodio il giorno dopo sulla Gazzetta dello Sport. Sapeste quanti episodi regala il ciclismo, ma proprio anche, voglio dire, di natura semplice, così. Ecco, questo Cercù, che andò in fuga per il motivo dovuto al mal di pancia di Moser, è stato uno dei pionieri, diciamo così, di un rapporto equilibrato tra strada e velodromi. Questa non la sapeva neanche Ivan Basso, scommetto. Non la sapevo nemmeno io. Ti mancava, eh? Ivan non era nemmeno nato, era il Giro d'Italia del 76, ma verificate perché è storica, è davvero, davvero. Senti Ivan, tu con la pista, alla pista non hai mai pensato? Ma non ho mai pensato, il problema è che non ho mai investito il tempo necessario, e questo è sicuramente un aspetto di cui non sono contento. La pista dà sicuramente un valore aggiunto importante anche per atleti che si occupano di altro, poi non è solo adatta per chi fa le volate, è adatta, come diceva poco fa Leo, anche a corridori che fanno corse a tappe. Wiggins, dicevamo poco fa, ne è una testimonianza diretta. Quindi ormai però è troppo tardi, quindi volevo anche dire un'altra cosa importante. Che ieri sera ho guardato la corsa con mio figlio Santiago, 10 anni, e è incredibile come la pista, sono rimasto sorpreso anch'io, qualche un bambino di 10 anni è stato fortemente colpito da quello che è il ciclismo su pista, perché alla fine si conosce molto bene il ciclismo su strada, ma la pista in Italia è ancora troppo poco conosciuta. Era la prima volta che lo vedeva Santiago? Era la prima volta che la vedeva, sì. E chiaramente conosce Elia, e Elia può essere un rappresentante per noi fondamentale per trasmettere questo messaggio a tutti gli sportivi, a tutti gli appassionati di ciclismo. Grazie Ivan, grazie davvero. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio forte Ivan Basso. Buona serata. Ciao Ivan Basso. Allora, Leo Turrini, sei pronto? Sono qui. Bene, adesso ci fermiamo un attimo perché c'è la borsa. Poi torniamo, sì. Parliamo di biscotti, pasticcerie, messaggi d'amore. Parliamo, se vuoi, anche delle... No, stavo leggendo chi è il medagliato più ricco, tu lo sai? Medagliato più ricco, secondo quello che sostengono in Brasile, sarebbe clamorosamente quel singaporegno. Bravo. Che non si capisce bene, però io adesso devo dirti, Nadal ha vinto il doppio, no? Insomma, che il singaporegno guadagni più di Nadal, io faccio un po' fatica. A queste Olimpiadi, Singapore ha il multi-million dollar award program, $1 million locali, cioè circa $700,000 americani per chi vince ai giochi. E dunque, il più ricco è Joseph Scullin. Se si intende come premio, sì, allora è corretto. Io pensavo fosse un riferimento proprio a chi guadagna di più nell'anno, hai capito? No, è il premio più elevato. Stati Uniti danno la mancia, $25,000 a chi vince le medaglie d'oro, ed è per quello che Phelps ne è così goloso. Tornano, scusa, e ti mettono nella pubblicità dei cornflakes e gli danno milioni di dollari. Sì, questo è sicuro. Non glieli dà il Comitato Olimpico Americano, ma le aziende private. Ma questo è chiaro. Ed è anche la ragione, io suppongo, per cui l'Inghilterra dà ai suoi medagliati, sai quanto? Un bel niente. Non è previsto alcun premio. Spirito di padre, il patriottismo, God save the Queen, hai capito? Secondo il Comitato Olimpico Britannico, alle Olimpiadi i premi non sono necessari, perché ringraziateci che vi mandiamo. Quindi nessun premio in denaro, poi anche loro magari finiscono sulla scatola dei cornflakes. La Malesia dà chi vince un lingotto d'oro. E l'Italia, è tra i primi 10 paesi che pagano di più, ed è, credo, primato europeo, sì, e vince lo speciale campionato europeo di categoria tra quelli che pagano di più i loro atleti. Sono €150,000 per la medaglia d'oro, 75 per la medaglia d'argento e 50,000 per la medaglia di bronzo. Ma dopo però diciamo che sono lordi, così tu mandi la borsa. Sono lordi, e in ogni caso vanno considerati come un contributo alla crescita del PIL stagnante. Eccola là. Borsa, torniamo. Boom, boom, boom, boom, boom. Perché lui di esperienza mi batteva. A lui bisognava tirargli la bomba. Bam, bam, bam. Colpo secco, colpo secco. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Tutti convocati alle Olimpiadi. 800240024 per intervenire. Siamo dei confusionari, non abbiamo ancora detto che Leo Turini ha appena visto Bolt correre su una gamba sola, praticamente le batterie dei 200, sì, no? Sì, gamba. Sì, diciamo, e le mani legate dietro la schiena, prendendo comoda, è andato a spasso, ovviamente. 20-28. D'altronde le qualificazioni per un fuoriclasse come lui sono una semplice sgambata di allenamento. Non riesco a immaginare come possa perderli 200, eh. Io neanche. Però voglio dire, nello sport, insomma, tante volte accadono cose impreviste, imprevedibili, staremo a vedere. Anche se è difficile prevedere una, cioè non può venire terremoto, calamità naturali, no, le cavallette. Potrebbe addormentarsi, ecco, hai capito? Dato potrebbe che perdersi sulla Pero Cormano, possono succedere varie cose. Dorme tantissimo, hai capito? Poi figurati qui a Rio, e poi hai visto dopo l'oro dei 100 metri si è messo a cantare Bob Marley, e poi insomma tutto. Ecco, se si assopisce forse gli avversari avranno una qualche possibilità, ma diversamente credo che vincerà andando a spasso. Allora, abbiamo Pietro dalla provincia di Genova, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo intervenire in merito a quello che ha detto Basso su suo figlio quando ha visto la, sì, praticamente il ciclismo su pista, che è rimasto colpito. Sì. Io ho un ricordo d'infanzia, perché quando ero piccolo mio padre mi portava sempre a vedere la Sei Giorni di Milano. Sì. E io mi ricordo Sercù, che aveva un modo di scattare. Praticamente appoggiava la testa davanti alla ruota davanti. Era una cosa spettacolare. E io ho questo ricordo di Sercù, che faceva uno spettacolo nello spettacolo. Artisti, equilibristi, gente anche di spettacolo, i Pistard, no? Leo Turrini. Beh, ma c'è una tradizione, il nostro amico al telefono ha ragione. Adesso mi dispiace, perché io finisco sempre col far capire la mia età avanzatissima, ma Antonio Maspes, 7 volte campione del mondo della velocità, era nell'Italia del dopoguerra veramente popolare come Fausto Coppi, certo, o come certo, gli attori, certo, le attrici, certo, del cinema, certo. Era una star, cioè nei velodromi allora andavano 30-40 mila persone per vedere le volate di Maspes, i surplus. Quando c'erano i duelli nella velocità, no? C'era questo sistema tattico per il quale uno si fermava, no? Sì. Delle volte facevano dei surplus che stavano lì anche un'ora e mezza. Non c'erano le televisioni, sulla bicicletta, c'era in bilico sulla bicicletta. Adesso bisogna fare la diretta frenetica, tutto in 3 minuti. Era un altro sport, hai capito? E insomma, io credo quello che ci ricordava prima Basso e anche l'amico che ora è intervenuto. Il ciclismo su pista ha un fascino irresistibile. Vero. E voi andate a Manchester, il velodromo lì è popolare come l'Old Trafford, dove adesso stanno Mourinho e Ibra, e come lo stadio lì di Guardiola e del City. Non è uno scherzo, non esagerare. Sono esempi che dovremmo cercare di recuperare, tenendo conto che abbiamo questo grandissimo passato. Allora Leo, io adesso ho convocato un amico mio, ma anche tuo, perché abbiamo una lunga storia di biscotti insieme. Abbiamo cominciato a raccontarli più di 10 anni fa. Ti è dato fastidio che abbiano pensato tanti al biscotto? Non ci ho pensato perché non leggo, e quindi mi dicono che molti hanno scritto, ha fatto precedere la partita da tutta una serie di ipotesi. Io semplicemente ho ragionato insieme al mio staff sulla gestione di alcune situazioni che per noi erano prioritarie. Abbiamo cercato di schierare la formazione che teneva conto di questo nel miglior modo possibile, e poi di giocarcela cercando di fare il risultato. Allora, questo era Blengini, il nostro CT chiaramente infastidito. Tu non sai che con Andrea Zorzi parliamo di biscotti da quello famoso dei nordici, e poi ne abbiamo parlato un sacco di volte a proposito della pallavolo. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati, è un piacere essere con voi. Allora, col Canada, biscotto o non biscotto, per far fuori immediata Francia? No, semplicemente già qualificati, primo posto assicurato, e quindi l'idea è, a loro interessava fino a un certo punto. Blengini ha fatto benissimo a gestire al meglio le risorse, poi il Canada arriva col coltello tra i denti e gioca al massimo, e ci sta che l'Italia non faccia la migliore partita. Tra l'altro poi, non so i francesi, ma sono certo che i brasiliani hanno fatto biscotti di quelli terrificanti, anche perché qualche anno fa, nel 2010 per la precisione, mondiale in Italia, la formula era così assurda, e questa è una colpa nostra, ma in quel giorno ad Ancona, tra Brasile e Bulgaria, chi perdeva incontrava la squadra molto più debole e evitava Cuba e la Russia. Giocarono una partita straordinaria i brasiliani per perdere 3-0, mettendo in campo quelli forti, perché sono bravi anche a far finta di sbagliare. Per capire. E Bernardo quella volta rispose: no, assolutamente, io ho fatto il mio massimo. Poi in realtà questa cosa gli è stata accusata, ma parlo di Bernardo, natore del Brasile, che in realtà in questi giorni non si è fatto sentire. So che Ngapé invece ha detto: no, il biscotto li conosco, via dicendo. Però quando ti metti in quelle condizioni, voglio dire, ragazzo mio, è un po' la responsabilità è vostra. Guarda che Leo Turini poi scrive tutto quello che stai dicendo, No, Leo, non puoi controllare l'intervista. Chiarissimo, sai che da giovane ho già raccontato che mi serviva il decoder con lui, ma è migliorato invecchiando. Guarda, ieri io ero con Paolo Roberto De Freitas in arte Bebeto, grandissimo allenatore brasiliano di pallavolo, campione del mondo con l'Italia nel 1998, no? Eccoli. E si doveva ancora giocare Italia-Canada, no? E Bebeto mi ha detto: l'Italia, se usa la testa, perde. E fa benissimo a perdere. Mi ha spiegato quello che diceva Zorro, è vero, che Bernardo, il CT del Brasile, due volte, anche in un'Olimpiade, ha adottato il sistema di rinunciare alla vittoria per scegliersi l'avversario più comodo o la parte più semplice del tabellone. Infatti io ho trovato sorprendente che la folla al Maracanazinho abbia fischiato gli azzurri in una maniera terribile. Infatti penso che dai quarti di finale ci sarà un clima molto pesante per i nostri ragazzi. Contro l'Iran. Perché io ricordo... Scusa Andrea, finisco. Perché evidentemente questi brasiliani aggiustano la storia a seconda di come gli fa comodo, no? E questo rende onore alla coerenza di Bebeto. Poi dopo ti devo dire che insomma noi abbiamo Piano che è mezzo rotto, Birrarelli che non sta bene. Blengini in una partita che per l'Italia non valeva nulla ha schierato Antonov al centro perché praticamente era senza centrali. Cosa doveva fare? Rischiare la salute dei suoi giocatori per fare un favore ai brasiliani e ai francesi? Beh, questo francamente mi sembra chiedere troppo. Andrea? No, riguardo al biscotto, giusto perché io ancora la differenza, io ricordo nel 94 mondiali in Grecia, giorno di qualificazione, noi già automaticamente qualificati, si giocavano la qualificazione la Svezia e la Cina, noi giocavamo contro la Cina, battuta sempre a suon di 3-0, quel giorno, ripeto, semplicemente a noi non cambiava assolutamente nulla, si giocò tanto per fare, si prese una legnata 3-0 e Christiansson, allenatore svedese, venne ad accusare direttamente Velasco, dicendo: no, l'hai fatto apposta. In realtà non c'era nessun interesse, semplicemente quando fondi una partita che per te non serve a nulla, non ci metti quello stesso animo che ci metti in altre situazioni, ed è ben diverso dal biscotto però. Questa è un po' antisportiva, perché è vero che ogni partita andrebbe affrontata col massimo dell'impegno per essere corretti, ma talvolta questo non avviene per questioni di punteggio e di classifica. Certo, Andrea, però è un discorso che abbiamo fatto mille volte, questo può anche rientrare in un concetto di sportività, cioè ti sei guadagnato sul campo un vantaggio, e in questo vantaggio è compreso il fatto di poter riposare, poter fare turnover, di essere scazzati, di essere demotivati. Può rientrare in un concetto sportivo? Guarda, sulla sportività è agganciata a un concetto che ognuno deve fare sempre del suo meglio, deve essere il player, via dicendo, quindi la sportività effettivamente fa sempre il proprio meglio, però effettivamente non c'è nulla, cioè se ti sei guadagnato il diritto con l'anticipo di essere lì, vai e fai quello che vuoi, puoi anche giostrare, come in questo caso, come diceva Leo Torrini, abbiamo due centrali che sono comunque uno seriamente infortunato e uno ancora non perfettamente, ma perché dovrei mai rischiarlo? E anche nell'idea di arrivare a provare a scegliere un avversario più o meno abbordabile, salvo poi che questo si dimostri vero, perché a volte capita che fare i biscotti costa carissimo sul piano psicologico, è comunque un'opportunità che ti sei guadagnato sul campo, quindi io non me la sento di dire che il biscotto in assoluto sia antisportivo. Poi, sai, l'atteggiamento sportivo e fair play a volte sono qualcosa di diverso da quello che avviene sì. nei tornei. Sì, biscotto a parte, giochiamo con l'Iran. È una squadra che, al di là dei malanni fisici reali, è una squadra che ha la possibilità di fare quello che non abbiamo mai visto. Leo Turrini e Andrea Zorzi. Leo. Guarda, io l'Iran l'ho seguito da vicino negli anni in cui Giulio Velasco è andato a Teheran, tra i mullah, no? Sì. E Velasco ha fatto un lavoro straordinario, ha portato questa squadra veramente nella top 10 del volley mondiale. Sono pericolosi, è una partita da prendere con le molle. Noi abbiamo già perso un paio di volte con l'Iran in competizioni ufficiali, anche in Italia, proprio a Modena, mi ricordo, e c'era Velasco su quella panchina. Adesso Giulio allena l'Argentina e tra l'altro nel quarto c'è Argentina-Brasile, quindi sarà un'altra cosa assolutamente memorabile, ma l'Iran ha un allenatore che ci conosce molto bene, perché Raul Lozano, che è l'argentino amicissimo di Velasco, che ha lavorato a lungo nel nostro campionato, un ottimo professionista. È una partita trappola, Non possiamo pensare loro sono arrivati quarti, passeggiamo, no, non è così. Tra l'altro i pallavolisti iraniani, anche questa è una cosa che non sa quasi nessuno, nel loro paese sono popolarissimi e guadagnano tantissimo, cioè questi giocatori nazionali iraniani prendono quasi $1 milioni a stagione, perché sono degli idoli. Dovremmo stare molto molto attenti e sperare di avere fisicamente recuperato i nostri acciaccati, perché non sarà semplice. Altre semifinali: Stati Uniti, Polonia, Canada, Russia e poi appunto Argentina-Brasile. Lo chiedo anche a te, Andrea, questa nazionale, recuperati gli infortunati, ha la possibilità di fare ciò che non abbiamo mai visto, e cioè di prendere la medaglia d'oro? Certo, ce l'ha la possibilità, ce l'ha perché sono forti, che stanno giocando molto molto bene. Adesso davvero l'Olimpiade è fatta di due tornei, c'è la qualificazione nella quale abbiamo giocato benissimo, esattamente come abbiamo fatto nella World Cup a novembre dell'anno scorso, quando siamo qualificati. I quarti di finale naturalmente mettono molta tensione. Contro l'Iran, come diceva giustamente Leo, è una squadra capace un po' di tutto. Io ricordo quando ho vissuto con Julio per un mese in Iran, davvero vi confermo che la pallavolo è uno sport popolarissimo, e Julio Velasco era molto, ma molto più famoso in Iran di quanto non fosse mai stato in Italia. Dicevo una cosa però degli iraniani: questi sono forti, fisicamente sono fortissimi. In Iran c'è la cultura della forza, infatti anche molti pesisti sono veramente degli atleti straordinari. Per fortuna si montano la testa velocemente. E quindi Julio fu bravissimo a tenerli schisci. Sì. Hanno avuto un buon risultato con Boban Kovac, che ha sostituito Velasco, però questo è come se fosse l'abbrivio che Julio ha dato a questi ragazzi. Poi si sono persi un pochino, si sono persi in mezzo a competizioni individuali e tra di loro. Quindi non sono una squadra che ha raggiunto quei livelli. Certo, nella partita secca sono capaci di tutto, perché a muro soprattutto sono pericolosissimi. Se noi giochiamo come abbiamo fatto, secondo me è difficile che non si riesca a passare in semifinale, ma sai, i se alle Olimpiadi diventano se giganteschi, perché sì. L'eliminazione diretta, ragazzi, fa tremare le gambe. Grazie Andrea. Grazie come sempre Andrea. Ciao a tutti e ciao Leo, buon divertimento. Ciao Zorro, ciao. Ci fermiamo per il traffico, Leo, stai con me. Ma pure il traffico, vabbè. Traffico, certo. Traffico, però Gormano. Però Gormano. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Tutti convocati. Tutti convocati alle Olimpiadi. Io avrei scommesso che sulla storia del valore economico delle medaglie mi sarebbero arrivati un sacco di messaggi, tutti di segno diverso, cioè di due segni in realtà. Uno è questo: i medagliati prendono per una cosa così prestigiosa quello che un calciatore mediocre prende in un mese, è vergognoso. L'altro segno è invece: intanto paga pantalone, è una vergogna. In tutti e due i casi, denominatore comune, la parola vergogna. Vabbè, sarà. Leo, ieri abbiamo visto un po' di cose carine, al di là della dichiarazione d'amore, dell'outing della nostra bravissima nuotatrice, stanno diventando, dicevo prima, le Olimpiadi dell'amore, ma anche quelle delle cose un po' curiose. Il podio è Sean Miller che vince, l'hai vista, finale dei 400 con un tuffo per proteggersi dall'assalto di Alison Felix. Sentiamo. Oh my goodness me! Felix thinks she's done it and Sean A. Miller has collapsed across the line. She's on the floor but she rose to conquer. She dared to believe that she could beat one of the greatest of all time. And in a dramatic finish that no one in this stadium will ever forget. Poi abbiamo visto nella ginnastica l'ucraino Radivilov nella finale del volteggio maschile, che fa, come mai è successo nella storia, 4 volteggi, mai accaduto, atterra sul sedere. E a quel punto che fai? Gli dai 0 oppure gli permetti di continuare visto che si è inventato un nuovo salto? No, non ci posso credere. Tanto è vero che... Eccolo. Gamba! Non lo posso... No, no, ti prego, no. No! L'ha fatto, però l'ha Mamma fatto. Mamma mia, l'ha fatto. L'ha fatto. Non ci credo. È qualcosa è di altro che spaziale, ancora di più. È andato con i glutei sul tappeto, ma pensavo di aver visto tutto nella vita, ma non pensavo. Ha fatto 3 salti. Ma no, ragazzi. Ma c'è anche il giapponese Kenzo Shirai che fa un triplo avvitamento e mezzo, novità assoluta che gli vale la medaglia di bronzo. Ritorniamo su Shirai. Incredibile. In diretta, parte da 6.40. Rondata, flick, 3 avvitamenti. E mezzo. 3 e mezzo. No, ma dai, io ragazzi. 3 avvitamenti e mezzo, ragazzi. E neanche questo, un 3.27, è sul codice attuale dei punteggi. Quindi ci sono già 2 movimenti, gentili telespettatori, che non sono previsti dal codice internazionale dei punteggi. E questo prenderà anche questo movimento il nome di Shirai. Leo Turrini, scegli tu, poi parliamo con Lina e con Giancarlo. Ma devo scegliere quale tra questi episodi mi ha colpito di più. Cioè. Beh, guarda, essendo allo stadio vado sul salto in lungo della quattrocentista, perché c'era anche qui, scusatemi, uh-huh, è la memoria, un precedente. C'era un centometrista americano prima della Seconda Guerra Mondiale, credo si chiamasse Braddock, come il pugile, no? Uh-huh. Che quando arrivava ai 95 metri, no, spiccava un balzo. Si tuffava di testa. Era una cosa vagamente folle, no? Perché poi gli capitò anche di ricadere prima della linea del traguardo e quindi perdeva delle gare importanti. Però, insomma, tutto questo che stiamo vedendo è bellissimo perché esalta, secondo me, anche la creatività dell'essere umano, no? Cioè la voglia di sperimentare qualche cosa sempre di nuovo, di originale, è l'esigenza di spostare un pochino più in là il limite delle nostre capacità. E questo in un'Olimpiade si coglie tantissimo. Poi naturalmente può capitare che funziona il tentativo che fai, e può anche accadere che involontariamente ti rendi ridicolo, perché certo, pensa lì la ragazza delle Bahama sui 400 metri, se ricadeva un attimo prima e perdeva l'oro, avremmo tutti detto, ma che folle, no? Hai capito? Ma certo, ma alla fine ma è anche pazzesco il fatto che ovviamente non se l'era pensata prima, è una cosa che le è venuta istintiva, correndo alla massima velocità possibile sui 400 metri. Ma ti ricordi, amici miei, che cos'è il genio? Fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Una scena indimenticabile, quella nel primo film. Nel primo film, se vuoi un giorno facciamo una pubblica sfida. Lina da Verona, buongiorno. Buonasera, salve, ormai. Salve, salve. Una mia amica mi ha telefonato perché io non ho più né radio né televisione, non leggo più i giornali perché mi viene un po' di nervoso abitare in questo paese, no? E mi ha detto, ma lo sai che chi prende la medaglia d'oro gli danno 150.000 euro, quella d'argento 75.000 e quella di bronzo 50.000 e l'Inghilterra invece niente? Faccio notare che 150.000 euro sono 300 milioni di lire, 75.000 euro sono quasi 150 milioni e 50.000 euro sono quasi 100 milioni. Io ho una pensione di 1.000 euro e mi hanno dato 3 euro di aumento sulla pensione perché non ci sono soldi, perché bisogna fare sacrifici. Questo dal 2008 fino al 2016. Ma non pensate che 150.000 euro uguale 300 milioni siano un po' tanti? tanti, ma per Lina, quanto bravi ma... siano. No, ma allora facciamo il distinguo: i 300 milioni ormai non esistono più, cioè l'euro no, mi sembra, esistono credo ancora, sia un'altra storia. 150 mila euro sono 300 milioni di lire. No, va bene, va bene. Sono come ricordava prima Leo Turrini, sono soggetti a tassazione e poi siamo sempre lì a discutere delle prestazioni di personaggi che può non piacerci, non piacerà sicuramente a lei, ma sono unici nel loro genere, perché non, purtroppo né io né Turrini né lei, se andiamo alle Olimpiadi vinciamo qualcosa, e per arrivare lì bisogna lavorare sul serio, sebbene in un settore che piace, sebbene da qualche volta da privilegiati, no Leo? Però è chiaro che questo è il discorso epocale che possiamo fare tutti i giorni parlando dello stipendio dei calciatori, che sono ben altra cosa. Beh, allora io capisco l'intervento della signora, ci mancherebbe altro. E quello che posso dire è molto banale: i campioni che vengono alle Olimpiadi, tolte rarissime eccezioni, non sono dei privilegiati, insomma, per banalizzare, non sono dei calciatori, non sono superstar che incassano cifre, dedicano gli anni migliori della loro giovinezza all'agonismo. Non hanno la certezza di un introito di questo tipo, perché poi l'Olimpiade la devi vincere o la medaglia la devi prendere, se il bronzo è 50.000, mi sembra, hai detto sì. Tu la cifra, no? Quindi netti alla fine saranno poco più di 25.000-30.000 euro, che se li spalmiamo su 4 anni, perché uno prepara nella migliore delle ipotesi un'Olimpiade per 4 euro, anni sono 7.000 euro all'anno, Cioè, allora bisogna stare attenti, perché io capisco che uno dica: ma come, allora non, anche mia mamma prende 600 euro al mese di pensione e ha quasi 90 anni, quindi io il ragionamento che fa la nostra interlocutrice lo capisco, ci mancherebbe altro. Dico solo che se vediamo le cose in una prospettiva non sono queste enormi cifre, anche perché, torno a dire, non è che uno va all'Olimpiade e automaticamente incassa quella cifra lì. All'Olimpiade c'è tutto il mondo, poi la medaglia la deve prendere, se non la prende quei soldi non li vede, e sono quasi tutti ragazzi, ragazze che prendono uno stipendio, quando va bene, dal gruppo sportivo di un'arma dello Stato, da 1200-1300 euro al mese, per allenarsi e il loro lavoro, anche 12-14 ore al giorno. Infatti, insomma, io posso capire l'indignazione, anche un po' di demagogia su conto, questo. Cioè, magari anche la mia mamma, che purtroppo non ascolta Radio 24, starà pensando: ma come, io prendo 616 euro al mese di pensione e uno che piglia la medaglia d'oro, che ne so, nel tiro, piuttosto che gliene danno 150.000. Sì, ma teniamo conto tutto il contesto e quello che ho detto, certo. O se no, se vogliamo essere, poi sto zitto, drasticamente coerenti, diciamo: no, non vogliamo più che lo sport sia una cosa, sport olimpico intendo, con una struttura pubblica, parapubblica come il CONI, deve essere totalmente finanziato dai privati, possiamo anche fare così, poi però se i privati non sono interessati, l'Italia va alle Olimpiadi e invece di 22, 23, 25 medaglie ne vince 3, non voglio sentire nessuno dire: ah, ma che razza di paese siamo, che vinciamo meno medaglie, non è possibile, capoverde, non è possibile trovare un accordo su questi punti, perché sono veramente questioni borderline, e uno sta o di qua o di là. Poi se si vuole fare il ragionamento perfetto che hai fatto tu, per quanto riguarda la spalmatura di questi premi e l'incertezza totale nel riuscire ad arrivare alle Olimpiadi e poi di vincere la medaglia, insomma, io userei poca demagogia e grande rispetto nei confronti di questi atleti che prendono il giusto, secondo me. Anzi, Giancarlo, buongiorno. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Grazie per avermi richiamato. Io sono molto emozionato perché è la prima volta che intervengo, ma vi seguo sempre, no? È banale di questo. Io sono cieco assoluto, no? Ero molto amante del cinema come sono adesso, e poi mi sono abbarbicato la radio, ma non è una cosa riduttiva, capite? Quando sento voi, quando sento il dottor Turrini anche il dottor naturalmente Bartoletti, è una musica per me, ecco, faccio questa lieve digressione perché sono veramente emozionato, prima non ero emozionato ma adesso in diretta. Ma no, non si preoccupi, siamo tra amici. Sì, questo lo capisco, ecco, voi avete saltato giorni fa la scuola di Iesi, ecco, io vorrei ritornare un attimo, intanto sono d'accordissimo con voi che naturalmente costa fatica e dedizione e quant'altro, no? Per vincere una medaglia non è facile, ecco, no? È naturale che è giusto che lo Stato riconosca questi grandi campioni, anche perché siamo orgogliosissimi noi italiani. Io mi sento patriota, ecco, guardi, nazionale. Questo, ripeto, questo è un discorso che ha segni diversi. Giancarlo, guardi, io mi spiace interromperla, però siamo molto drastici con i tempi e abbiamo GR. Se vuole intervenire più tardi, se vuole intervenire domani, noi siamo sempre qui. Intanto saluto Leo Torrini. Ciao Leo, a domani. Grazie, volevo dire all'ultimo interlocutore che mi ha commosso. Sì, lo ringrazio tantissimo. Grazie Leo Torrini. Allora, GR, torniamo fino alle 20 per parlare di Olimpiadi. Tutti convocati alle Olimpiadi. Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Tutti convocati. Andiamo a vincere ancora! Attenzione, attenzione, fermi tutti, uscite immediatamente dall'acqua, mollate tutto, pinne, braccioli, salvagenti, accendete Radio 24 e ascoltate i Fuori Posto. Com'era Fili, li ho convinti? Sì, per me andava bene, un ma c'è solo un piccolo problema, non hai spiegato perché le persone dovrebbero ascoltare sto programma, ma di che parla? Ah sì, è vero, c'hai ragione Filippo, aspetta. Cari bagnanti, tutti voi almeno una volta nella vita vi siete sentiti fuori posto e noi parleremo di quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro nel cuore di qualcuno, quelli che un posto prima ce l'avevano e ora non ce l'hanno più. E parleremo anche di quelli che invece hanno scelto di stare nel posto sbagliato. E chi lo conduce? Come chi lo conduce? Filippo, io e te. I Fuori Posto con Umberto Alezio e Filippo Roma. Da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Oh, aspetta, lasciateci i vostri messaggi a ifuoriposto@radio24.it o allo 0246524182 o via sms al 349-2386666. Tutti convocati alle Olimpiadi. 6 secondi, il tripudio dell'Olympic Aquatic Stadium che comincia a battere le mani per salutare questo traguardo raggiunto dal Sette Rosa. Eccole qui le azzurre, dopo 12 anni l'Italia torna a far festa, torna in una semifinale olimpica e può dire la propria. Il Sette Rosa in semifinale, per il momento ce la giocheremo contro la Russia, 12 anni dopo una delle notti più indimenticabili dell'Olimpiade di Atene, quando il Sette Rosa vinse la medaglia d'oro a quei giochi olimpici. Ora abbiamo battuto la Cina 12-7, semifinale contro la Russia, tutt'altro che semplice. Ma signori, noi ci crediamo. 800 24 00 24, tutti convocati alle Olimpiadi fino alle 20 di quella nazionale di cui vi ho parlato e al cui pensiero, rimembrando ancora, mi tornano addosso i brividi. Beh, allenatore di quella nazionale era Pierluigi Formiconi, che saluto e ringrazio. Ciao coach. Buonasera. Ci risiamo 12 anni dopo. 12 anni dopo, sì. Si riannoda quel filo. Sono venuti anche a te in mente, guardando questa partita e guardando queste partite e questa squadra, certe sensazioni che avevi provato da bordo vasca? Intanto ho rivisto qualcuna che ha cominciato con me a 16 anni e che ce n'ha 37 adesso. Ad esempio Tania Di Mario, ricordo bene. Una certa Tania Di Mario, che me ne sono un po' cresciuta. Era una bambina, sì. era veramente una bambina. Adesso è diventata una donna adulta, forse sono le ultime partite che giocherà. L'ho sentita prima di partire, gli ho fatto in bocca al lupo perché io tifo sempre Italia, questo è normale, spero che facciano bene. Non dico niente perché porta male. No. Allora, fare partita per partita, stanno giocando molto bene dietro, questo è una cosa importantissima, credo. Noi abbiamo vinto tutto quello che abbiamo vinto dalle Olimpiadi sicuramente ai due mondiali, ai cinque campionati europei. Abbiamo visti sempre giocando molto bene dietro. Hanno un grande portiere, hanno una difesa che sta giocando molto bene a zona, una mezza M che mi ricorda tante cose, perché noi abbiamo vinto quasi tutto con giocando bene così, quindi spero che sia di buon auspicio. Al DNA loro. Delle grandi squadre italiane. Ma sì, è un bel gruppo, sono ragazze interessantissime, io ho avuto tutte, da Garibotti, che è stato 3-4 anni con me, tutte le altre, ci sono 3-4 che sono della stessa da Dicchi, quindi li conosco molto bene. Grande carattere, grande voglia di vincere, un grande braccio di Garibotti sicuramente, quindi ci sono grandi possibilità per andare in fondo. Oltretutto le due squadre che io pensavo fossero le più forti sono oggi si incontrano, sì. Anzi domani si incontrano, perché Stati Uniti e Ungheria sono secondo me le squadre più forti in questo momento, e una delle due andrà fuori. Certo. Io parlo di medaglia d'oro sempre. Certo, eh? Certo, di finale. E se poi io sono fatto male, dico sempre che i secondi non contano mai, quindi... Ah, ecco, è così, ma lo penso anch'io. È così. Ho avuto un lungo dibattito con gli ascoltatori su questo tema. Allora, gli dico solo questo. Ti do del tu, Alex, ma dobbiamo, no? Ci do io ho fatto, abbiamo fatto credo 5 campionati europei, 4 abbiamo vinti e una volta siamo arrivati secondi, quindi noi in 10 anni abbiamo fatto solo finale primo e secondo posto, sia un mondiale che al mondiale di Barcellona 2003 dove vincemmo l'europeo ma poi arriviamo secondi al mondiale. Ancora mi ricordo che tutte ridevano sul podio, le mie piangevano perché erano arrivate seconde. E poi sai, quando sei abituato a vincere non accetti di perdere una finale. Sì, anche se uno adesso parlando di calcio dice, ma l'altro anno chi ha vinto lo scudetto? Forse non si ricorda che l'ha vinto la Juventus nel calcio, ma il secondo chi è arrivato? Non lo so, forse la Roma, forse il Napoli. Sì, forse la Roma, forse non lo so, l'Atalanta, non lo so. Quindi dico, è importante poi che rimanga il nome, no? Sì, sì, anche 2000, se... 2016 Italia. Sì. Sì, anche se insomma ci sono, anche questo è un altro argomento, certi risultati sportivi, che vuol dire una nazionale o un atleta particolarmente longevo, e la vostra nazionale, la tua nazionale ha costruito un ciclo, però la cosa difficile è anche durare nel tempo, secondo me. Certo, la difficilissima è proprio quello, infatti noi nel 2000 che non ci hanno mandato alle Olimpiadi. Si calcola che eravamo nel 98, vincemmo l'ultimo primo mondiale, poi vincemmo gli europei l'anno dopo, che eravamo europei, campioni d'Europa in carica e campioni del mondo in carica. L'anno dopo, nel 2001, fecero fuori Italia e Ungheria. Al mondiale del 2001 chi vinse? L'Italia, seconda Ungheria. Quindi è un po' strana questa cosa, no? Sì, sì. Vabbè, è strano altro che. Quanto conta in una nazionale avere un mix di atleti emergenti e di atleti esperti, soprattutto in una competizione così stressante come l'Olimpiade, come un mondiale? Serve grande capacità di saper ragionare, quindi sicuramente chi ha fatto e chi ha fatto tante partite in nazionale si può permettere questo. Andare lì a improvvisare o sperare che il giovane risolva la situazione diventa difficilissimo. Sì, il mix è importantissimo, dove Tania credo che sia la mamma di tutte. Sì, sì. E poi tutto il resto, tutte le altre l'hanno preso. Lei c'ha la mentalità giusta, la mentalità vincente, ha vinto oltre che con me, ha vinto tanti, anche con me, anche tanti scudetti, ha vinto Coppe dei Campioni, quindi praticamente l'esperienza di Tania credo che in Italia, anche in tutti gli altri sport, non ce l'abbia nessuno. Questo né pallavolo, né basket, né calcio, né nessuno, perché Tania ne nasce una ogni 50 anni. E che è così longeva poi, perché io la vedo ancora, mi sembra che c'ha la faccia di quando c'aveva 18 anni. Sì, la faccia non è tanto diversa, anche se allora ad Atene, me la ricordo bene, era veramente la bambina di quel gruppo, perché era era un gruppo esperto quello. Ma alle Olimpiadi non si può improvvisare, no? Anche perché la tensione è talmente grande che uno deve solo viverla, ecco, se uno non la vive forse non si rende conto di quello che forse lì per lì neanche ti rendi conto quello che fai, però la tensione è altissima, perché poi fondamentalmente per tutti questi giorni pensi solo a una cosa. Sì. Ti scordi pure di mangiare qualche volta, perché secondo me è fondamentale avere la selezione massima. Me lo immagino. I maschi cosa fanno? Cosa possono fare? I maschi l'ho visti non benissimo, specialmente alla fine. Adesso io sinceramente con la Grecia hanno avuto una brutta botta un mesetto fa, hanno perso tanto a poco. Mancava Tempesta sicuramente, però sinceramente li ho visti, non so, forse anche Sbosi, forse anche Sandro, non lo so, io sinceramente io punto molto più sulle femmine che non sui maschi. Eppure a inizio torneo io li ho visti con la faccia giusta. Sì, però poi alla fine io oggi mi sono rivisto Spagna-Serbia, la Serbia mostruosa, e alcuni risultati io non riesco a capire come hanno perso col Brasile, come la Croazia perde con la Francia. Sinceramente mi hanno fatto pensare a brutte cose, mi hanno fatto pensare brutte cose, a cominciare dal picchetto. Io conosco ho avuto molti giocatori serbi, croati, dell'est che a queste cose ci guardano. Più che al picchetto no, realista, perché, realista. No, nel senso che la Juve può perdere pure una volta col Frosinone, ma è un caso. Io voglio dire, nel senso, nel calcio è ancora più facile poter nel calcio magari io tiro in porta 50 volte, prendo 10 pali, sbaglio 10 rigori e perdo, perché il Frosinone mi fa un gol contropiede, sì, no? Alla Juve. Però sì, poi sulla carta il nostro sport è ancora più grosso, il divario. Quindi di punti in bianco, la Croazia perde con la Serbia, perde col Brasile, bah. Ma il picchetto alla scelta degli avversari, come magari può essere successo quando pagano meno. 15 o 20, uno ci pensa pure dopo, perché io dico, ma com'è possibile che la Serbia perde con il Brasile? No, sono dove andare a sta cosa. Rudic bravissimo, non metto in dubbio. Io l'altro anno ho allenato la Lazio, c'avevo Felipe, un giocatore brasiliano, anche lui sono bravi, però il livello... Ci siamo capiti. Il livello è livello. Ci siamo capiti. È come nella pallavolo, quando sei più forte vinci. Basket, quando sei più forte vinci. Sì. Non è calcio. Ma battuta, è un argomento su cui riflettere. Serbia che ha battuto la Spagna, Montenegro che ha battuto l'Ungheria. Una sorpresa, qualche sorpresa qui o no? Ma sì, diciamo che no, la Serbia è normale che ha battuto la Serbia Spagna. Normale. Montenegro forte. Montenegro ha vinto ai rigori, ho visto anche quella, mi sono piaciuti. Io c'avevo il secondo portiere che la stanno tirava con me, che è un certo Radic, molto bravo, che non ha giocato. Però mi sembra strano che l'Ungheria sia arrivata ai rigori con Montenegro, quello sì. Ma lì purtroppo io non l'ho vista poco, però credo che il Montenegro sia una squadra che possa mettere in difficoltà tutti, quindi ci sta. Sì. Però l'Ungheria che esce fuori, che non fa i primi quattro, è una delusione. Benedek, che io ho avuto come giocatore nella Roma dello scudetto, mi ha deluso. È giusto dirlo, ma è così. Beh, era deluso, perché quando non arrivi nei primi quattro, se fai dal quinto all'ottavo posto, hai deluso. Almeno queste le grandi squadre, poi il Brasile che arriva lì magari è un'eccezione. Ma è chiaro, siamo partiti. Serbia, Croazia, Italia stessa, Ungheria devono arrivare lì. Sì, siamo d'accordo se su questo. Se arrivano fuori dalle prime quattro, hanno perso. Siamo d'accordo su questo. Non è neanche non è un risultato sportivo accettabile, al di là di no, perché Rudic dice sempre una cosa fondamentale, il mio amico che poi stimo tantissimo. Ci sono tre cose nella nazionale: lui di guardare World League, cose. Ci sono i campioni europei, i campioni del mondo e Olimpiadi. Olimpiadi sono una cosa, il top di quello che è, il lavoro di 4 anni. Che tu devi arrivare alle Olimpiadi programmando 4 anni prima, e quel giorno o quella settimana devi stare al massimo della condizione fisica, emotiva, quello che volete voi. E questa è una grande difficoltà. E non può sbagliare mai. Solo le grandi squadre riescono a fare questo. E secondo me la Serbia, in questo caso, è una grande squadra. Picchetti sicuramente. Picchetti, la Serbia sta. Grazie coach, ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. Grazie. Per tutto. Grazie Pierluigi Formiconi. CT, ricordo, della nazionale, dell'ultima nazionale femminile di pallanuoto, campione olimpica Atene 2004. Antonio, buonasera. Ciao Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. E anche al grandissimo Turrini. Sì. Volevo, io che seguo i 400 metri, diciamo così, piani dai tempi di Lee Evans del 1968, penso che l'impresa di queste Olimpiadi sia abbondantemente i 400 metri vinti dal sudafricano, che dall'ottava corsia ha sfiorato i 43 secondi sul giro della morte, come lo chiamano gli addetti ai lavori. Antonio, siamo tutti, è un plebiscito credo questo. Ieri c'era con noi anche Giorgio Rondelli, che ben conoscerà, che sta commentando per la RAI, Leo Turrini, tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che al di là dei lampi di Bolt, insomma, stiamo parlando di un altro pianeta, di un altro livello. Se parliamo di sport puro, di atletica, allora l'impresa è stata certamente quella sui 400 metri, non ci sono discussioni, e credo rimarrà quella l'impresa di questa Olimpiade. Non immagino nessuno, nemmeno Bolt sui 200, che possa fare di più o di meglio, no? Tre atleti sotto i 44 secondi penso non sia mai successo veramente nei tempi moderni. E poi una seconda cosa velocissima, giusto per non rubare spazio agli altri ascoltatori. Sì. Ho sentito l'ascoltatrice prima che diceva dei premi, delle nostre medaglie. Io sono d'accordissimo con quello che diceva Turrini, che è giusto dare un riconoscimento anche dal punto di vista economico, perché io che vado all'estero e vendo il Made in Italy, lo vendo con un po' di orgoglio in più quando poi posso anche presentare la nostra piccola Italia che diventa quinta, sesta, settima nel medagliere olimpico. Quindi è un piccolo investimento che un paese come il nostro... ritengo sia fondamentale. Sì, non capisco perché lo sport debba essere gratis, debba essere praticato gratis quando lo si fa a dei livelli professionali. Non, a dire la verità, non capisco neanche perché debba essere trasmesso gratis in TV. Non ci trovo niente di perverso nella logica del pagare per vedere uno spettacolo che solo certi atleti barra artisti riescono a produrre. Ci fermiamo per la borsa, poi c'è Andrea dalla provincia di Savona, stia lì, torniamo subito. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati alle Olimpiadi. Sarà molto importante l'uscita. Il colpo di petto, doppio avanti, mezzo giro, no, caduta, e addio medaglia per Yoe, che pure è il campione del mondo, è il campione del mondo ed è uscito. Vabbè, siamo ai drammi, alla tristezza, però l'ho visto prima in diretta mentre stavo parlando con voi, è in corso la prova delle parallele, e per capire, secondo me, cosa sta dietro un'Olimpiade, adesso senza usare retorica che non ne ho voglia, per capire cosa c'è dietro un'Olimpiade, per capire cosa c'è dietro questi momenti, poi parliamo di vire denaro, di quello che volete, guardatevi, se ne avete l'occasione, la faccia di questo cinese che compie il suo meraviglioso esercizio, ricordiamo campione del mondo, Yoe, fa l'uscita, a un certo punto perde clamorosamente l'equilibrio, e guardatelo in faccia mentre si accorge che sta per cadere per terra. 800240024, numero verde, non siamo tristi però, Andrea, buonasera. Buonasera, buonasera. Dica. Volevo prima di tutto fare i complimenti alla trasmissione e a Leo Turrini, che ha fatto rivivere a mio papà i fasti del ciclismo su pista di qualche anno fa. E allora dica a suo papà di stare connesso, keep in touch, come direbbero in Inghilterra e in America, perché dopodomani dovrebbe essere qui con me in questo studio Elia Viviani, fresco di medaglia d'oro. Wow. E ci sarà ovviamente Leo Turrini al telefono e ci divertiamo. Wow, meraviglioso, fatevi complimenti da parte nostra, perché è stato un grandissimo risultato. Io volevo solo soffermarmi un secondo sul discorso di quella signora di prima, sui compensi delle medaglie olimpiche. Sì. Secondo me guardiamo la pagliuzza e non vediamo la trave, perché diciamo la verità, questi atleti se lo meritano alla fine, sono i migliori che ci sono al mondo. Secondo me bisognerebbe guardare altre cose, ad esempio, se posso fare un piccolo esempio, io ieri mi trovavo a Cesana e ci sono a Cesana Torinese, ci sono degli impianti sportivi costruiti 10 anni fa per le Olimpiadi invernali, costati milioni e milioni di euro, che sono inutilizzati. La signora dovrebbe arrabbiarsi per quelle cose, non per l'atleta che per 4 anni suda e si fa, scusate, il culo dalla mattina alla sera per 2 minuti di esercizio, per 15 giorni di... Che attenzione di, poi, attenzione, che poi attenzione, si fa il culo per 4 anni, poi arriva lì e in una frazione di secondo, esatto, altro che medaglia d'oro, d'argento, di bronzo. Sono tre medaglie, sono tre persone al mondo che possono guadagnare, cioè, una medaglia, è assurdo, quella cosa lì. Quindi secondo me gli atleti vanno tutelati, anche perché, come diceva Turrini, questi atleti sono... per la minima parte sono conosciuti, cioè, tanti atleti che tra 15 giorni resteranno sconosciuti come lo erano 15 giorni fa, no? Sì. La loro settimana di gloria, e poi chi si è visto si è visto. Sì. Quindi... Però Andrea, anche in questo bisognerebbe aprire un discorso e una parentesi, anche in questo valgono le leggi del mercato, so che è cinico, è crudele dirlo, però lei stia tranquillo che dalla settimana prossima, finita l'Olimpiade, ricomincia il campionato di calcio e ci troveremo a parlare di calcio e magari di Ferrari e magari di Valentino Rossi o di Ducati tutti i santi giorni, any given day, per usare un'altra espressione inglese che mi piace molto. E questo perché ci saranno un miliardo di messaggi, di telefonate più o meno gradevoli, che diranno: ecco, li avete dimenticati, non parlate più di quelle, vince l'Ucraina, le parallele, la medaglia d'oro persa dal cinese, mi segnalano con un cartello elettronico dalla regia, ringrazio Lorenzo Rottella per la segnalazione. Ecco, ho perso il filo, ma stavo per dire che ci chiameranno e ci diranno: li avete dimenticati, non parlate più, in televisione non si vede più Campriani, non si vede più il tiro al volo, non si vede più la ginnastica. Ragazzi, però, allora io vi chiedo in tutta onestà, quanti di voi sarebbero disposti a fare un abbonamento alla Pay TV per vedere i campionati italiani di tiro a volo? Io non ho una risposta, ma credo pochini. Oppure ci siamo sbagliati tutti quanti. Allora, dato che siamo in piena operazione nostalgia, abbiamo sentito prima Pierluigi Formiconi, allenatore dell'ultimo Dream Team italiano della pallanuoto femminile, campione olimpico ad Atene, piena operazione nostalgia, e sento il mio amico Charlie Recalcati, che è un po' che ne ho perse le tracce. Ciao Charlie! Ciao. C'è ancora? Ciao Carlo! Siamo ancora. Allora Charlie, ultima medaglia, ultima partecipazione italiana fu quella che ci fece venire alla fine le lacrime agli occhi, ma erano lacrime di gioia viste a rimpianto per aver perso contro un'Argentina che era inarrivabile. Questo torneo come lo vivi? Male perché non ci siamo? Beh, questo in assoluto, sì. Questo in assoluto, perché è un peccato non esserci, considerato che la vetrina olimpica è una cosa di cui il nostro movimento ha bisogno e avrebbe avuto bisogno e ci si doveva andare. Però tant'è, per cui adesso valutiamo quello che sta succedendo, quello che è stato fatto. Chiaramente ci sono stati due gironi molto diversi. Il girone con gli Stati Uniti, dove è stato tutto molto chiaro, dove c'è stata sicuramente una squadra come l'Australia che è stata sorprendente, perché ha battuto Francia, ha battuto Serbia, ha perso solamente con gli Stati Uniti, quindi un girone che si è delineato abbastanza bene e facile dal punto di vista della classifica. L'altro girone invece, dove l'inizio titubante della Spagna ha fatto sì che nascesse un girone molto equilibrato, tant'è vero che la squadra che è arrivata prima ha perso due partite, come ha perso due partite chi è arrivata poi quarta. Certo. Quindi lì molto brava la Croazia a vincere le partite giuste, a perdere anche la partita giusta con la Nigeria, che non contava assolutamente nulla. E quindi si è creato adesso una situazione dove la Spagna, che era assieme agli Stati Uniti, partiva quantomeno come la giusta rivale degli Stati Uniti, invece dovrà giocarsela prima della finale, quindi non si ripeterà assolutamente la finale di 4 anni fa e neanche la finale di 8 anni fa. Sì, sì, e certo. Quindi un tabellone un po' sbilanciato, dove però nella parte diciamo opposta agli Stati Uniti ci sono appunto due belle realtà come l'Australia e la Croazia, che sono le vere sorprese di queste Olimpiadi, con due potenze come la Lituania e la Serbia che chiaramente faranno di tutto per arrivare loro in finale assieme agli Stati Uniti. Sì, certo, Charlie, sempre che la Spagna non faccia poi lo sgambetto agli Stati Uniti, perché la Spagna, abbiamo detto, è partita in modo molto titubante, ha compromesso il suo percorso, però è in grande crescita. Sì, ma poi loro sono anche abbastanza abituati, soprattutto da quando c'è Scariolo, a partire piano e a tirarsi anche un po' di critiche nella prima fase e poi a giocare le migliori partite in seguito. E quindi adesso vediamo, insomma, la semifinale dovrebbe essere Stati Uniti e Spagna, però prima devono giocare contro l'Argentina, contro la Francia. Insomma, non so se Australia-Lituania sia così scontata a favore dei lituani. Non è così scontata, perché l'Australia ha dimostrato di essere una squadra che ha individualità interessantissime e soprattutto è una squadra che gioca una pallacanestro molto ma molto atletica, che potrebbe far soffrire la Lituania. Croazia-Serbia è il derby dei derby dei Balcani. Qui insomma, credo che la Croazia farebbe carte false per andare avanti, non solo perché è alle Olimpiadi, ma perché vorrebbe dire battere la Serbia e viceversa. Poi dopo obiettivamente Stati Uniti-Argentina credo che sia scritta. Spagna-Francia lo stesso. Spagna-Francia lo stesso. Sia un po' calante la Spagna crescente. Anche se, guarda, io degli Stati Uniti non mi fido mai in positivo, perché io mi ricordo anche quelli di Atene, che ti ricordi perfettamente anche tu, arrivarono con l'infradito, trovavi in giro tutta la notte. Ed erano allenati da Larry Brown, che in conferenza stampa diceva quel numero 4, era, quel numero, esatto, non sapeva neanche i nomi degli avversari. Era il periodo in cui gli allenatori chiamavano gli avversari per numero. Per numero. Devo dire che dai mondiali del 2006 le cose erano già cambiate, perché arrivavano documentati, conoscendo gli avversari, con meno spocchia, e quindi da allora, poi dopo, hanno sempre fatto risultato. Però è anche vero che comunque la Spagna, così come la Francia, così come l'Argentina, sono squadre che oltretutto imbottite da giocatori che conoscono il mondo NBA e conoscono a loro volta gli avversari, e quindi ci può stare tutto. Poi gli Stati Uniti ultimamente non hanno stravinto, perché poi dopo hanno sofferto, le ultime 2-3 partite le hanno sofferte tutte. Appunto. Ti faccio un'ultima domanda, che però è la più difficile. Cosa aveva in più il tuo gruppo e la tua generazione rispetto a quella che adesso non è riuscita a qualificarsi per Rio? Insomma, non avevano bisogno di dire continuamente che erano un gruppo. Lo dimostravano. Invece oggi la lezione è stata ripetuta per tante volte, dicendo siamo bene assieme, siamo un bel gruppo. E sinceramente io quando li sentivo dicevo, ma che bisogno c'è? Ma lo dicono perché devono convincere gli altri, perché devono convincere se stessi? E quindi questo è uno dei motivi. Secondo motivo è perché la mia era una squadra molto più equilibrata, molto più distribuita nei ruoli, e quindi coperta veramente di talenti in tutti i ruoli. Sì, certo, che avere una nazione con questo talento e non riuscire nemmeno con Messina a riempire il secchio senza rovesciarlo. Lo so, però è un talento che è diciamo sovradimensionato in alcuni ruoli, in altri ruoli manca, e quindi una squadra obiettivamente un po' troppa. E poi siamo un gruppo, bisogna dirlo tutte le volte, caro Charlie. Sì. Certo. Fatti vedere, vieni a trovare, ti aspetto. Così almeno ci si convince, presto. Ti aspetto presto, Charlie. Grazie. Ciao, grazie, Carlo, Charlie Recalcati. Allora, io voglio tornare all'Olimpiade dell'amore, perché se c'è uno dei tratti caratteristici di questa Olimpiade è quella degli amori in mondovisione, delle dichiarazioni di matrimonio, perfino della dichiarazione di amore di una medagliata italiana, Rachele Bruni, dolcissima, alla sua compagna diletta. Io ho sempre, cioè, l'ho sempre vissuta la sorellette senza problemi, lo sanno tutti, non l'ho mai fatto, però auto volevo cambiare. No, su questo c'è la sorella, però ci vuole coraggio nello sport. Sì, no, ovviamente ci sono persone magari ancora hanno dei pregiudizi, però io vivo serena e tranquilla, non penso ai pregiudizi. Vivo per me stessa, vivo per la mia passione nuoto e alle persone che mi vogliono bene. Vladimir Luxuria, buonasera. Buonasera. Bella lezione questa. Bella lezione di Rachele Bruni, no? È la cosa più naturale in un paese normale, quando hai una grande gioia come una vittoria per un atleta che è tutto nella vita, dover volerla condividere con le persone a cui vuoi bene. Lei lo ha fatto con la sua famiglia, con l'esercito e con la sua compagna di letta. Quindi la cosa, quando tu vinci, hai una gioia talmente grande che vuoi farne partecipe tutte le persone che ti hanno appoggiato, che ti hanno dato coraggio, che ti hanno infuso ottimismo. E sicuramente per Rachele Diletta è una persona importantissima. Certo. Ed è stato bello, così come l'hanno fatto anche altri atleti Sì. Eterosessuali, che in un momento di vittoria la persona possa dedicare la vittoria all'amore, alla persona che ama. Soprattutto un grande insegnamento allo sport in generale, uno sport che spesso è inquinato da corruzione, da violenza, da omofobia anche. Molto. Penso che questo gesto sia stato un gesto enorme. Molto, molto. E infatti io penso che l'ambiente dello sport sia il più chiuso possibile, il più retrogrado possibile, pur parlando di tutti i giorni, amandolo profondamente lo sport, Però io credo, sono cinico, me ne rendo conto, e lei mi dica se sbaglio oppure no, che Rachele Bruni possa tenere questo tipo di atteggiamento. Se questo tipo di atteggiamento lo tenesse andiamo al solito calciatore, o a un giocatore di basket, o a un giocatore di pallavolo, ma è capitato anche negli Stati Uniti, nella pallacanestro, nell'NBA, che un giocatore facesse outing per poi pentirsene amaramente perché messo al bando dai compagni, e le lascio immaginare il pubblico. Ma io penso che sia importantissimo questo gesto, perché voglio continuare a sperare in un mondo migliore, cioè quel mondo in cui le persone vengono giudicate per i risultati ottenuti e non per l'orientamento sessuale della persona. Chi è appassionato di nuoto penso che abbia gioito di questa medaglia d'argento che Rachele ha portato alla nostra nazione. Assolutamente. Che poi Rachele incidentalmente sia una donna omosessuale dovrebbe essere davvero considerato in secondo piano. Purtroppo da noi, ma anche in terzo, ancora, non abbiamo una società ormai aperta alle unioni civili, eccetera, anche in quarto e quinto. Purtroppo molti calciatori, noi abbiamo calciatori ovviamente anche in Serie A che sono gay, come ci sono anche tanti atleti italiani che sono alle Olimpiadi. Però cosa si teme? Si teme che le tifoserie, che a volte sono un po' becere, possano usare anche l'argomento dell'orientamento sessuale per insultare la squadra. Ma anche avversaria. Compagni di squadra, anche lo stesso ambiente. La famosa, io dico la verità, della io saponetta. Non lo farei. Bravissimo, la sindrome della saponetta. Io non lo farei. Io non lo fossi un giocatore, un calciatore gay, non farei mai outing. Perché? Perché verrai ghettizzato. E verrai linciato ogni domenica. Però c'è anche il rovescio della medaglia, questa volta non d'argento, cioè sono anche i gesti un po' eroici di chi comunque sfida una certa mentalità, che poi contribuiscono a migliorare un mondo, secondo me. Per cui è vero, è rischioso, sicuramente si può rischiare l'emarginazione, però per esempio un gesto come ha fatto Rachele è un gesto che secondo me apre la mentalità. Io voglio continuare a sperare in uno sport, e non è un caso che Malagò sia una persona anche molto aperta da questo punto di vista. Io l'ho avuto anche ospite al Gay Village, sì. E lui ha espresso assolutamente un'idea gay friendly dello sport. Io voglio continuare a pensare allo sport come lo sport che unisce, lo sport contro le barriere, lo sport come educazione, lo sport come integrazione, lo sport come se siamo uniti si vince. E quindi per me nell'educazione sportiva ci deve essere anche l'educazione alla non discriminazione. No, quantomeno al rispetto, dovrebbe essere una delle basi. Le chiedo ancora questo, invece di quelle dichiarazioni d'amore sul podio in Mondovisione, ieri ne abbiamo parlato un po', abbiamo visto quella del cinese, temendo per una risposta negativa della sua gentile futura signora. Ce ne sono state altre di occasioni in cui abbiamo visto cose come questa. Esibizionismo o coraggio anche in questo caso? Senti, c'è un esibizionismo della violenza in questo periodo, in quest'estate, nei telegiornali, nelle notizie, che a volte accendiamo il telegiornale, ascoltiamo le notizie alla radio con l'angoscia che sia successo qualcosa di violento, che per me questi momenti di gioia in cui una persona decide che in quel momento vuole fare una dichiarazione d'amore, ma viva Dio, abbiamo bisogno di questa roba qui, porca miseria. Sono d'accordo, grazie davvero, voi, è stato un salve. Piacere, buonasera Vladimir Luxuria. Luciano, dalla provincia di Roma. Sì, buonasera a tutti. Buonasera, vuole fare outing su qualunque cosa, Sì, dicevo prima. Outing, diciamo, ampliando un po' il pensiero, perché secondo me, se vogliamo parlare di sport minori o sport maggiori, il problema nasce dal fatto che da quando il protocalcio non rende più, nello sport italiano vai avanti anche se hai un minimo di risorse. E questo perché comunque quando io praticavo sport agonistico non pagavo. Adesso i miei figli che praticano sport devo pagare anche i fior di quattrini. Sì. E questo comunque perché purtroppo i famosi contributi a pioggia che sono stati sperperati nel corso degli anni non ci sono più. Questo è corretto, ed è infatti qualche ascoltatore prima osservava, si parlava dei premi degli atleti. Ma sono giustificatissimi, hanno ragione. Si sottolinea che questi, arrangiandosi con gli impianti che hanno a disposizione, dovendo girare come trottole di qua e di là e spesso pagandosi le spese da soli, delle spese pure le sostengono, no? Sì, sicuramente, ma infatti la salvezza di molti sportivi italiani è l'appartenere ai gruppi sportivi militari, dove almeno hanno uno stipendio, perché altrimenti non riesce ad andare avanti. Poi parliamo anche delle trasmissioni televisive. Secondo me noi il canone lo paghiamo anche per avere la possibilità di vedere degli sport cosiddetti minori che altrimenti non potremmo vedere. Sì. Sarebbe giustificatissimo li far vedere. A me è capitato, io ho giocato a pallavolo per tanti anni e ai miei tempi la pallavolo era uno sport minore, ma non lo vedevi neanche la finale di campionato la vedevi. Beh, adesso mi sembra che la copertura sui canali in chiaro sia esauriente da questo punto di vista. Poi torno a ripetere, guardate che alle Olimpiadi, per avere i diritti di trasmissione delle Olimpiadi, per questi atleti che prendono in Italia 150.000 euro lordi per una medaglia d'oro, in Inghilterra nemmeno un penny, hanno un valore commerciale enorme. Sul mercato radiotelevisivo, credo sia l'evento che abbia il maggior, anzi sono certo, è l'evento che vale di più televisivamente parlando dell'intero pianeta. Quindi non consideriamo anche questo nel pacchetto. Luciano, io la ringrazio e torno a Rio da Dario Ricci, perché Vanessa Ferrari è in gara. Dario? Eccoci Carlo, siamo qui nell'arena della ginnastica, finale del corpo libero che è appena iniziato con lo splendido esercizio della giapponese 19enne Mai Muramaki, siamo in attesa del punteggio. Due le azzurre in finale, perché oltre a Vanessa Ferrari c'è anche Erika Fasana che scenderà in pedana tra pochissimo, tra un paio di concorrenti. L'oro sembra già segnato, perché Simon Biles, la grande regina nera di questa edizione della ginnastica, dovrebbe mettersi al collo anche questo titolo olimpico. Però le altre posizioni del podio sono tutte da decidere. Stiamo aspettando il punteggio della Murakami. Intanto vi dico che nelle parallele uomini l'oro è andato all'ucraino Vernayev con 16.041 davanti allo statunitense Leyla 15.900 e al russo Beglianti 15.783. Con quella, con quella rovinosa caduta del, del cinese, che era grande favorito e si stava portando a casa, l'abbiamo raccontata prima, si stava portando a casa il titolo, ha compiuto il suo esercizio e aveva praticamente la medaglia d'oro al collo, poi è uscito male dalle, dalle parallele, ha perso l'equilibrio e io credo che la, la sua faccia, mentre ha capito che stava per appoggiare, sedere per terra, sia una delle immagini di queste sportivamente drammatiche, sportivamente, davvero, però sia una delle immagini di questa Olimpiade. Sì, sì, infatti oggi è una giornata in cui gli ultimi istanti sono decisivi come i primi, tante le storie decise proprio all'ultimo minuto, all'ultimo istante, no? Raccontavamo quella di Giannutis e Bellerman oggi nel, nel fondo, questa del cinese Yu che proprio all'ultimo secondo ha visto svanire un oro che sembrava conquistato. Adesso in pedana la cinese Wang, pensate, 16 anni, punteggio di qualificazione 14.666, per la Muramaki un 14.533 nell'esercizio precedente. Una bambina che stiamo vedendo in questo momento in pedana. Cos'altro succede oggi per i nostri colori, Dario? Beh, dopo ci spostiamo nella piscina olimpica dove l'Italia affronterà la Grecia, il sette bello della pallanuoto affronterà la Grecia nei quarti per cercare un posto in semifinale in un torneo durissimo che ci ha visto già sconfitti con Croazia e Stati Uniti, ma anche la Serbia ha sofferto, quindi vuol dire che davvero è tutto da decidere. E poi c'è sempre questa meta race della categoria Nacra che continua ad essere inviata per le difficili condizioni meteo, soprattutto le instabili condizioni del vento, e anche lì siamo in corsa per per una medaglia. E poi Lupo Nicolai nella notte praticamente qui brasiliana alle 23, quindi quando da voi ricomincerà ad albeggiare, saranno impegnati nella semifinale, non nei quarti di finale come prima avevo detto erroneamente, nella semifinale di tornato di pallavolo, quindi sfida già decisiva, assolutamente decisiva per entrare nel filo della medaglia. Perfetto, allora ci sentiamo, ci teniamo collegati, ci teniamo connessi, racconterai tutto nei GR e noi ci sentiamo domani. Noi ci sentiamo domani perché domani continueremo con il nostro piano partita olimpico, cioè tutti convocati dalle 14 alle 15 e tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 fino a quest'ora. Io ringrazio Claudio Sgattone, il nostro autore, Leonardo Siligato, Lorenzo Rotelli in regia, in redazione, Pietro Accorta in regia. Ciao a tutti. Ci vediamo domani al Tanga. Enjoy. Tutti convocati.